Il gramulle, le molte. Da 2 giorni Atreio aveva lasciato dietro di sé le paludi della tristezza, e da allora vagava senza meta per un immenso deserto di pietre in cui non c'era ombra di vita. La fame e la sete cominciavano ora a tormentarlo. Quel poco di provviste che aveva era affondato insieme con Artax nelle acque nere. Invano Atreio scavava intorno ad ogni roccia, nella speranza di trovare almeno una radice, ma in quella regione desertica non cresceva assolutamente nulla, neppure muschio o licheni. Da principio aveva provato un certo sollievo al pensiero di avere almeno della terraferma sotto i piedi, ma ora, piano piano, doveva ammettere che la sua situazione si era al contrario fatta, se possibile, ancora peggiore. Si era perduto. Non era più in grado di stabilire neppure in che direzione camminava, poiché la luce crepuscolare in cui si muoveva era perfettamente identica da ogni lato e non gli offriva alcun punto di riferimento. Un vento gelido soffiava incessante tra le guglie di roccia che si levavano intorno a lui da ogni parte, alte come torri. Salì su cime di montagne. Affrontò spigoli rocciosi, scalò pareti impervie e tornò a discenderne, ma mai gli si mostrava una vista diversa da quel susseguirsi ininterrotto di montagne, sempre più lontane, dietro le quali sorgevano alte catene di montagne e così di seguito, da ogni parte fino all'estremità dell'orizzonte. E tutto intorno non una creatura vivente, non un insetto, non una formichina. Neppure gli avvoltoi si vedevano, quegli avvoltoi che di solito seguono con grande pazienza il viandante sperduto, fino a che la vita lo abbandona. Non c'era più dubbio ormai. Il paese in cui si era sperduto era quello delle montagne morte. Ben pochi lo avevano veduto e quasi nessuno ne era ritornato. Ma in tutte le saghe e le leggende che si narravano fra il popolo di Atreio, in tutte si parlava di loro. Ricordava una strofa di un'antica canzone popolare. Meglio ai pei cacciatori morire dentro le paludi che nelle montagne morte. C'è quel gran profondo abisso dove sta Igramulle, le molte, il più orrendo degli orrori. Anche se Atreio avesse saputo in che direzione muoversi per ritornare, ormai non gli sarebbe più stato possibile. Era penetrato troppo in profondità in quella terra. Non poteva più far altro che proseguire. Se si fosse trattato soltanto di lui, della sua persona, molto probabilmente a questo punto si sarebbe cercato una grotta nella roccia e vi si sarebbe rincantucciato per aspettarvi la morte, come facevano in simili casi i cacciatori della terra da cui lui proveniva. Ma il suo compito era un altro. Lui era alla grande ricerca. Ne andava della vita dell'infanta imperatrice e della salvezza di tutta Fantasia. Non gli era concesso di abbandonare l'impresa. Così continuò a salire e discendere per pareti e pendii, e di quando in quando si rendeva conto di avere camminato per un tempo che non sapeva più calcolare, come uno sonnambulo, mentre il suo spirito vagava in pe più soavi contrade e assai malvolentieri tornava alla realtà. Bastiano ebbe un sussulto. L'orologio del campanile batté l'una. Per oggi la scuola era finita. Rimase in ascolto del chiasso e delle grida dei ragazzi che uscivano dalle classi e si precipitavano nei corridoi. Si udiva chiaramente il calpestio dei molti piedi giù per le scale. Poi, ancora per un po', si udirono voci e richiami che salivano dalla strada. E infine, sul casseggiato della scuola, si stese il silenzio. Quel silenzio si posò sull'animo di Bastiano come una coltre greve e cupa che minacciava di soffocarlo. Da quel momento in poi sarebbe stato solo, completamente solo nel grande edificio della scuola, per tutto il resto della giornata, per tutta la notte che doveva venire e chissà per quanto tempo ancora. Da quel momento la faccenda cominciava a farsi seria. Ora gli altri, i suoi compagni, tornavano a casa per il pranzo. Anche Bastiano aveva fame e aveva freddo, nonostante tutte le coperte in cui si era avvolto. Di improvviso tutto il coraggio lo abbandonò. Il suo progetto gli appariva ad un tratto assolutamente folle, assurdo. Voleva andare a casa, subito, In quello stesso istante era giusto ancora in tempo. Fino a quel momento il babbo non poteva essersi accorto ancora di nulla. Bastiano non avrebbe neppure avuto bisogno di dirgli che aveva marinato la scuola. Naturalmente, una volta l'altra, la cosa sarebbe saltata fuori, ma fino a quel momento ne sarebbe passata di acqua sotto i ponti. E la faccenda del libro rubato? Già, anche questo lo avrebbe dovuto confessare, un giorno o l'altro. Ma il babbo alla fine avrebbe mandato giù anche quello, come aveva in quegli anni mandato giù tutte le delusioni che Bastiano gli aveva dato. Non c'era un vero motivo per aver paura di lui. Molto probabilmente sarebbe andato lui stesso, senza dire parola, dal signor Coriandoli e avrebbe messo a posto ogni cosa. Bastiano aveva già preso il libro della copertina color rubino cupo e stava per riporlo nella cartella, ma ad un tratto si arrestò. «No», disse di improvviso ad alta voce, nel gran silenzio del solaio. Atreio non abbandonerebbe mai l'impresa soltanto perché la cosa diventa un pochino più difficile. «Quel che ho cominciato lo devo portare fino in fondo. Ormai sono andato troppo oltre per poter tornare indietro. Non posso che continuare, qualunque cosa succeda». Si sentiva molto solo. E tuttavia in quella sensazione di solitudine c'era anche una punta di orgoglio, l'orgoglio di aver saputo restare forte e di non cedere alla tentazione. Insomma, un pochino pochino di somiglianza con Atreio ce l'aveva pure. Ma intanto era venuto il momento in cui Atreio davvero non poteva più proseguire. Davanti a lui si spalancava il profondo abisso. L'orrore tremendo di quella vista non lo si può descrivere a parole. Attraverso tutto il paese delle montagne morte si apriva nel terreno una fenditura enorme, che poteva essere larga almeno mezzo miglio. La sua profondità era tale che non se ne poteva vedere il fondo. Atreio stava steso bocconi sull'ollo di una sporgenza di roccia, gli occhi fissi in quel buio che pareva discendere fin nelle viscere più profonde della terra. Prese lì accanto una pietra, grande come una testa, e con tutte le sue forze la scagliò quanto più lontano gli fu possibile. La pietra cadde e cadde e cadde e continuò a cadere fino a che fu inghiottita dall'oscurità. Atreio rimase in ascolto, ma nessun tonfo gli giunse all'orecchio, sebbene attendesse a lungo. Allora fece l'unica cosa che gli rimaneva da fare. Cominciò a camminare lungo il margine del profondo abisso. E così sapeva benissimo di doversi tener pronto a incontrare ad ogni minuto quel più orrendo degli orrori di cui parlava l'antica canzone. Non sapeva però di che genere di creatura potesse trattarsi, sapeva soltanto che il suo nome era Igramul. Il profondo abisso correva a zigzag tagliando nel mezzo il deserto montagnoso, e naturalmente lungo la fenditura non c'era alcun sentiero, ma anche qui si levavano torrioni di roccia su cui egli doveva inerpicarsi e che talvolta gli ondeggiavano sotto i piedi in maniera preoccupante. Oppure si trovava di fronte a enormi blocchi che doveva faticosamente aggirare, o incontrava ghiaioni che scendevano verso la fenditura e che subito si mettevano in movimento, non appena vi posava il piede. Più di una volta solo una spanna di terreno lo separava dal frontespizio del precipizio. Se avesse saputo di avere alle spalle un inseguitore che di ora in ora si faceva sempre più vicino, probabilmente la paura lo avrebbe indotto a commettere qualche imprudenza che, date le difficoltà del cammino, sarebbe potuta costargli ben cara. Ad inseguirlo era quella creatura d'ombra che gli stava al calcagna da quando si era messo in viaggio. Nel frattempo l'ombra di cui era fatta si era così addensata che ora i suoi contorni si delineavano chiaramente. Si trattava di un lupo nero come la pece e grosso quanto un bue. Il naso sul terreno, l'animale avanzava a trotto serrato sulle trance di Atreio attraverso il deserto di pietra delle montagne morte. La lingua gli penzolava dalle fauci, lunghissima, e i labbroni erano contratti, così da mettere in mostra una spaventosa dentatura. Le tracce fresche, l'odore che ancora gli arrivava alle nari, gli dicevano che ormai solo poche miglia lo separavano dalla sua vittima e quella distanza si andava accorciando implacabilmente. Ma Atreyu non immaginava neppure lontanamente di essere inseguito e continuava a cercare di farsi strada, lento e attento, con prudenza. Proprio mentre entrava in uno stretto anfratto che correva come un canale tortuoso fra le pieghe della roccia, udì all'improvviso un fragore che non riuscì a spiegarsi e perché non somigliava in alcun modo a qualsiasi altro rumore avesse mai udito prima d'allora. Era un mugghio, uno scroscio, un urlo e un grande stridore, e nello stesso istante Atreyu sentì che tutta la roccia su cui si trovava cominciava a tremare e a sussultare. E udì il fracasso di blocchi di pietra che si schiantavano e, con immenso fragore, rotolavano giù lungo le pareti rocciose. Per un momento aspettò che il terremoto, o che altro poteva essere, cessasse. Quando però si avvide che continuava, riprese a strisciare dentro il suo conicolo, raggiunse infine l'estremità e mise cautamente fuori la testa. E in quel momento la vide. Sopra l'oscurità del profondo abisso, tesa fra le due sponde della voragine, si allungava una mostruosa ragnatela. E nelle appiccicose maglie di quella stranissima rete, fatte di fili spessi come grosse funi, si dibatteva un enorme, candido drago della fortuna, che agitava scompostamente la coda e le zampe, e in tal modo non faceva che ingarbugliarsi sempre più strettamente nella rete, senza speranza di uscirne. I draghi della fortuna sono fra gli animali più rari di fantasia. Non hanno alcuna somiglianza con i draghi comuni che dimorano nelle cavità profonde della terra come gigantesche serpi ripugnanti che emanano un terribile fetore e pare stiano a guardia di reali o presupposti tesori. Queste mostruose creature del caos sono per lo più lunatiche e di pessimo carattere. Posseggono come i pipistrelli ali a membrana, con cui riescono a sollevarsi goffamente nell'aria con grande fracasso e sputano fuoco e vapori. I draghi della fortuna, al contrario, sono creature dell'aria e del calore, creature di irresistibile gioia e felicità, e nonostante le loro ponderose dimensioni, sono lievi e leggeri come nuvole d'estate. E per questo non hanno alcun bisogno di ali per volare. Nuotano nelle brezze del cielo, come i pesci nell'acqua del mare. Visti dalla terra, assomigliano a dei lampi che guizzino più lentamente del solito, ma la loro caratteristica più meravigliosa è il canto. La loro voce è come il rintocco di una grande campana d'oro, e quando parlano piano è come se si udisse la campana in lontananza. Chi ha avuto la ventura di udire una volta il loro canto non lo dimentica per tutto il resto della vita, e da vecchio ne racconta ancora ai suoi nipotini. Ma il drago della fortuna, che ora Atreyu vedeva, data la situazione in cui si trovava, non poteva certo aver voglia di cantare. Il suo lungo corpo sinuoso, con le sue squame color della madreperla, che scintillavano di riflessi bianchi e rosati, pendeva tutto contorto, imprigionato nelle gigantesche maglie della rete. I lunghi barbigli dell'animale, la sua sontuosa criniera e i ciuffi di candido pelo sulla coda e sul corpo, erano impigliati nelle corde appiccicose, così strettamente che non riusciva quasi più a muoversi. Solo le pupille scintillavano, rosse come rubini nella testa leonina, e mostravano chiaramente che era ancora in vita. Lo splendido animale sanguinava da molte ferite, perché lì c'era anche qualcos'altro, qualcosa di enorme, che continuava a scagliarsi contro il drago, come una nube nera, mutando forma ad ogni istante. Un momento pareva un ragno gigantesco con zampe lunghissime, occhi fiammeggianti ed un grosso corpo pesante, coperto di un pelame nero e stopposo. Poi si trasformava in un'unica grossa mano, con enormi artigli che tentavano di schiacciare il povero drago, e un minuto più tardi diventava uno scorpione nero che con il suo pungiglione velenoso colpiva la sua infelice vittima. La lotta fra quelle due possenti creature era davvero terribile. Il drago della fortuna si difendeva ancora, sputando di tanto in tanto un fuoco azzurro che bruciava le setole della mostruosa creatura impalpabile come una nuvola. Dal groviglio salivano zaffatti di fumo che turbinavano come nuvolette sopra le fenditure. Il fetore che ne emanava era tale che Atreio non riusciva quasi più a respirare. Ad un certo punto il drago della fortuna riuscì persino a portare via con un morso una zampa al suo avversario, ma quell'arto staccato dal corpo malefico non cadde nelle profondità dell'abisso, come si sarebbe potuto immaginare. Rimase invece per un momento sospeso nell'aria, continuando a muoversi, e poi tornò al suo posto, ricongiungendosi al corpo oscuro e nebuloso dal quale era stato separato. E così accadeva sempre e tutte le volte che il drago riusciva ad afferrare coi denti un pezzo dell'avversario, pareva che mordesse nel vuoto. Solo in quel momento Treio si accorse di qualcosa che fino allora gli era sfuggito. Quell'orribile creatura non era un unico corpo compatto, ma una inimmaginabile quantità di piccoli insetti di un azzurro acciaio, che ronzavano come calabroni infuriati e in sciami foltissimi si raggruppavano, fino ad assumere di volta in volta le forme più disparate. Era Igramulle, ed ora Treio capiva anche perché era chiamato le Molte. Saltò fuori dal suo nascondiglio, afferrò l'amuleto che portava sul petto e gridò con quanto fiato aveva in corpo: «Alt, fermatevi! In nome dell'infanta imperatrice! Alt!» Ma la sua voce si perse nell'urlo e nello strepito dei due combattenti. Lui stesso non riuscì quasi a sentirla. Senza pensarci un minuto di più, Atreio si mise a correre sulle corde appiccicose della rete, dirigendosi verso i due contendenti. Sotto i suoi piedi la rete vibrava e mandava un ronzio acuto. Perse l'equilibrio, cadde fra le maglie, rimase appeso ad una corda solo per una mano. Penzolante sopra il profondo abisso, riuscì a tirarsi nuovamente su, a liberarsi e riprese a correre. Igramolle avvertì d'un tratto che qualcosa si stava avvicinando. Si volse di colpo e la sua vista era davvero tale da impietrire per l'orrore. Ora era soltanto un gigantesco volto di un azzurro acciaio e un unico occhio sopra la radice del naso, dalla pupilla verticale, fissava Treio con inimmaginabile ferocia. Bastiano emise un grido soffocato di spavento. Un grido di spavento echeggiò sopra l'abisso e fu raccolto dall'eco che lo sospinse avanti e indietro. Igramule roteò l'occhio a destra e a sinistra per vedere se ci fosse in arrivo qualcun altro, perché quel ragazzino che ora lo stava davanti paralizzato dall'orrore. No, quello non poteva essere stato, ma non c'era nessuno. Non sarà mica che alla fine ho sentito il mio grido, si disse Bastiano profondamente scosso. Ma no, questo è impossibile. Ed ora Atreio udì la voce di Igramulle. Era una voce molto stridula, ma anche piuttosto rauca, che non si adattava in nulla e per nulla a quel volto enorme. E inoltre, parlando, la bocca non si muoveva. Era il ronzio di un gigantesco sciame di calabroni che si traduceva in parole. «Un bipede!» udì esclamare Atreio. Dopo tanto e tanto tempo di fame, due bocconcini prelibati in una volta sola. Ma che giornata fortunata per Igramulle! Atreio dovette raccogliere tutte le sue forze, tenne alto lo splendore davanti all'unico occhio del mostro e domandò: «Conoscete questa insegna?» «Vieni più vicino, bipede», ronzò il coro sciamante. «Igramulle non ci vede tanto bene». Atreio fece un altro passo, in direzione di quel volto mostruoso. Ora la bocca si apriva. Al posto della lingua c'erano innumerevoli antenne scintillanti a forma di uncino. «Ancora più vicino», ronzò lo sciame. Atreio fece un altro passo avanti, ed ora era così prossimo a quel volto che riusciva a distinguere chiaramente gli innumerevoli insetti bluastri che continuavano a turbinare furiosamente. Nonostante questo, il volto crudele del mostro restava immobile. «Io sono Atreio», disse. «E sono qui per incarico dell'infanta imperatrice». «Arrivi in un momento inopportuno», rispose l'irato ronzio dopo un bel po'. «Che cosa vuoi da Igramulle? Come vedi, è molto occupata». «Voglio questo drago della fortuna», rispose Atreio. «Datemelo». «A che cosa ti serve, bipede Atreio?» «Nelle paludi della tristezza ho perduto il mio cavallo. Devo andare all'oracolo meridionale, perché solo Uyulala mi può dire chi è in grado di dare un nuovo nome all'infanta imperatrice. Se non avrà un nome nuovo, dovrà morire, e con lei tutta fantasia, ed anche voi, igramulle, che chiamano le molte. Ah, venne dal volto in tono strascicato, e questa è la ragione per cui in tanti punti del regno non c'è più nulla? Sì, rispose Treio, dunque anche voi lo sapete, igramulle. Ma l'oracolo meridionale è molto, molto lontano, troppo perché io vi possa giungere nel breve spazio di tempo della mia vita. Per questo vi chiedo di darmi quel vostro drago della fortuna. Se lui mi porta in volo, forse arriverò in tempo alla mia meta. Dal turbinio dello sciame che formava il volto venne qualcosa che poteva essere un ridacchiare sommesso di molte voci. «Ti sbagli», bipede Atreiu. «Noi non sappiamo nulla di un oracolo meridionale e nemmeno di una Ulialia, ma sappiamo per certo che questo drago non ti può più portare. E anche se non fosse ferito, il vostro viaggio durerebbe tanto a lungo che l'infanta imperatrice potrebbe nel frattempo morire mille volte. Non sulla durata della tua vita, bipede Atreiu, devi misurare la tua ricerca, ma su quella della sua». Lo sguardo di quella pupilla verticale era quasi insostenibile e Atreiu abbassò il capo. «Questo è vero», mormorò. «Inoltre», continuò il volto senza muoversi, «nel corpo del drago c'è il veleno di Igramulle. Gli resta forse soltanto un'oretta di vita al massimo». «In tal caso», mormorò piano Atreiu, «non c'è più alcuna speranza, né per lui né per me, ma neppure per voi, Igramulle». «Beh», ronzò la voce, «Igramulle perlomeno avrebbe fatto una volta di più un buon pasto. Ma non è ancora detto che per te, che per lei questo sia davvero l'ultimo. Lei conoscerebbe un altro mezzo capace di trasportarti in un baleno all'oracolo meridionale. L'importante è sapere, bipede Atreiu, se la cosa ti piace. Questo è il punto». «Di che cosa parlate?» «È un segreto di Igramulle. Anche le creature dell'abisso hanno i loro segreti, bipede Atreiu. Fino ad oggi Igramulle non l'ha mai confidato a nessuno, ed anche tu devi a tua volta giurare che non ne farai parola con alcuno, perché sarebbe di grande danno per Igramulle. Oh, di grave danno assai se tu lo rivelassi. Lo giuro, parlate dunque». Il gigantesco volto, color dell'acciaio, si piegò leggermente in avanti e ronzò in maniera appena percettibile. «Devi lasciarti mordere da Igramulle». Spaventato, Atreiu fece un salto indietro. «Il veleno di Igramulle», proseguì la voce ronzante, «uccide nello spazio di un'ora, ma al tempo stesso conferisce a chi lo porta in corpo il potere di trasferirsi all'istante in qualunque regione di fantasia che egli desideri. Penso un po', se lo si venisse a sapere, tutte le sue vittime le sfuggirebbero di mano». «In un'ora?» esclamò Atreiu. «Ma che cosa si può fare in un'ora soltanto?» «Beh», ronzò lo sciame, «dopotutto è sempre più di quanto ti resta stando qui. Decidi tu». Atreiu lottava con se stesso. «Libererete il drago se vi prego di farlo in nome dell'infanta imperatrice?» domandò infine. «No», rispose il volto, «non hai il diritto di fare una simile richiesta, anche se porti indosso Aurin, lo splendore. L'infanta imperatrice lascia a tutte le sue creature la libertà di essere ciò che sono. Per questo anche Igramulle si china davanti alle sue insegne, e tu lo sai benissimo». Atreiu se ne stava lì ancora a testa china. Ciò che Igramulle diceva era la verità. Quindi lui non era in grado di salvare il bianco drago della fortuna. I suoi personali desideri non contavano nulla. Si rialzò e disse: «Bene, fai ciò che hai detto». Con la rapidità del fulmine lo sciame azzurro fu su di lui. Lo avvolse completamente. Egli avvertì un dolore acutissimo alla spalla sinistra ed ebbe ancora soltanto il tempo di pensare all'oracolo meridionale. Poi un velo nero gli calò davanti agli occhi. Quando poco più tardi il lupo nero arrivò in quel punto, vide davanti a sé la gigantesca ragnatela tesa sopra l'abisso, ma nient'altro. La traccia che aveva seguita fin lì si dissolveva di improvviso e, nonostante tutti i suoi sforzi, non riuscì a ritrovarla. Bastiano si arrestò. Si sentiva male, come se avesse lui stesso in corpo il veleno di Igramulle. «Grazie a Dio non sono nel regno di fantasia», mormorò a bassa voce fra sé. Per fortuna nella realtà di simili mostre non ce ne sono. Questa è appunto solo tutta una storia. Ma era davvero soltanto una storia? Com'era possibile che Igramul e probabilmente anche Atreyu avessero udito il suo grido di spavento? Questo libro cominciava a diventare per lui un po' troppo inquietante.